giacca e cravatta, mi stai chiedendo un voto, mi stringi la mano, lo stai facendo vuoto. E vengo da una generazione di persone con i calli e le mani succubi potenti, sub le infami, ma quali valori sono catene alle ali, io scavo con le mani, il lavoro è poco, pagato pure male, non mi lamento, no, posso fare, bisogna ingegnarsi per poi guadagnare, io devo guardare per poi imparare, io e i miei fra uccidiamo Caronte, sbarcare il lunario, sbancare il denaro, nell'aria c'è tutte le mie lezioni, i manichini sono molti, troppi suonano al portone, io sorrido, faccio dalla finestra, cannone a doppia penna, miro alla testa, le vostre cravatte vi strozzeranno, libertà un valore, loro lo sanno, chi non ha nulla, non ha nulla da perdere, chi ha tanto tanto non ha chi rendere, voi che vi lagnate in piazza, una razza che contesta il piatto che mangia, non credo alla vostra bandiera, nemmeno alle parole di un leader in carrettiera, classe sociale che parte da zero, sognando il dinero imbandisce la tavola, classe sociale che parte da zero, di lavoro in nero racconto l'urba favola, classe sociale che parte da zero, sognando il dinero imbandisce la tavola, classe sociale che parte da zero, di lavoro in nero racconto l'urba favola, io vedo la gente che mangia illusioni, io sogno ciò che sogna la gente, i milioni, nomi diversi, le stesse aspirazioni, a spugnare Banca d'Italia con i cannoni, la mia non è una razza di signori, dove i cognomi fanno rima con soldoni, dove gli agnelli sovrastano i leoni, i miei nonni erano schiavi dei padroni, o se l'inferno poi è così tale da non essere possibile levatura sociale, che leggo la Bibbia in fondo non vale, il paradiso da qui non lo puoi afferrare, tra disadattato, pura sociale, pregiudicato, piombo se non puoi mangiare, se per svoltare ogni giorno dobbiamo fare i conti con sto mondo, parla le rughe di tuo padre, urla le lacrime di tua madre, cresciuti senza aspirazione di una laurea in tasca, ingoiano il rospo, adesso il fondo non raffia, i tempi cambiano, niente sacrifici, tutti parlano e sono solo voci, i jackpot senza sporcarsi le mani, riempio lo stomaco prima di domani, classe sociale che parte da zero, sognando il dinero imbandisce la tavola, classe sociale che parte da zero, di lavoro in nero racconto l'urba favola, classe sociale che parte da zero, sognando il dinero imbandisce la tavola, classe sociale che parte da zero, di lavoro in nero racconto l'urba favola, classe sociale che parte da zero, sognando il dinero imbandisce la tavola, classe sociale che parte da zero, di lavoro in nero racconto l'urba favola, classe sociale che parte da zero, sognando il dinero imbandisce la tavola, classe sociale che parte da zero, di lavoro in nero.